Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di questa settimana di Focus Economia. Come ricordava il nostro GR, oggi trasmettiamo da Cernobbio, dove c'è stata la prima e c'è la prima giornata di lavori del workshop annuale dello studio Ambrosetti qui a Villa d'Este. Chiaramente l'interrogativo di tutti i partecipanti sullo scenario di oggi, di domani e sulle strategie competitive, così recita il titolo, in realtà si può tradurre tranquillamente cos'è questa crisi, quando potremmo dirla completamente archiviata e soprattutto quali saranno le caratteristiche dell'uscita e quindi della ripresa economica. Mentre sullo sfondo restano un po' di spigolature tra gli economisti e il ministro Tremonti, avete letto gli appelli, ne abbiamo parlato tutta la settimana, e soprattutto resta il tema dei bonus e degli stipendi, dei premi ai grandi manager della finanza e soprattutto delle banche. Dopo l'appello lanciato da vari ministri europei, su questo c'è anche in corso a Londra il vertice dei G20, che è un preparatorio di quello di fine mese di Pittsburgh, e sembra che almeno su questo la posizione europea sia univoca e unica, cioè si andrà a chiedere più regole, tetti e corrispondenza tra risultati raggiunti e premi, e anche premi che non incentivino atteggiamenti speculativi. Il tutto in una giornata in cui, lo dico a chi sta già scrivendo al 349-238-6666, è uscito un dato sulla disoccupazione americana brutto, molto pesante, ma devo dire atteso. La disoccupazione americana ad agosto è volata al 9,7%, siamo ai massimi del 1983, e più che le percentuali fosse il riferimento temporale quello che serve, lo dico a chi continua a sostenere che o sosteneva nel passato che la crisi fosse un'invenzione dei media, dei pessimisti, dei corvi. E insomma, era dal 1983 che in America non si toccava il 9,7% di disoccupati, e questo non è imputabile, diciamo, né alla stampa né ai corvi. Ancora l'economista e recentemente premio Nobel all'economia Joseph Stiglitz, uno dei pochi, viste le polemiche, che previde in tempi non sospetti la crisi, ha detto che c'è una alta probabilità che l'economia americana, dopo essere emersa dalla sua peggiore recessione degli anni 30, torni nuovamente in crescita negativa, cioè torni nuovamente in recessione. Io non vorrei partire, diciamo, con questa puntata con il gufo, infatti non lo facciamo, anche perché Stiglitz tutto si merita tranne che il gufo, ha sempre azzeccato le sue previsioni, purtroppo, visto che erano previsioni negative. In questo scenario segnaliamo anche un Dominique Strauss-Kahn, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che ha detto oggi il mondo sta lentamente emergendo dalla crisi, prima aspettiamo una ripresa vera e propria, poi sarà il momento delle cosiddette exit strategies, ossia le strategie di uscita coordinate tra i vari paesi. E sempre Strauss-Kahn ha aggiunto: persistono i rischi di una instabilità finanziaria. Ancora oggi, in una puntata un po' particolare, non faremo le notizie in breve, ve le sto già dicendo io, oggi il dato sull'export italiano nel mese di giugno ha fatto segnare un meno 20%, l'import meno 21%, quindi la bilancia commerciale paradossalmente migliora, ma insomma meno 20% rispetto al giugno del 2008 vuol dire che un bene su 5 non è stato esportato un anno dopo. E ancora la borsa, volete già sapere, ve la diamo subito. La borsa tra virgolette attendeva i dati sulla disoccupazione americana e in qualche modo li legge come un allontanarsi di un'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse. Lo dico perché anche l'America è positiva, più 0,1% sul Dow Jones, mentre Francoforte è più 1,24%, Londra più 1,31%, Parigi più 0,8% per quello che riguarda l'andamento del mercato in questo momento. Milano guadagna l'1% sul FTSE MIB e l'1% anche sul FTSE All Shares. I titoli migliori: ST Microelectronics più 4,6%, Popolare di Milano più 4,2%, Banco Popolare più 3,2%, Intesa più 2,5, bene Fiat ci recupera, quindi dopo i cali delle ultime sedute, più 2,3 come Pirelli, Tenaris più 2,1, Ital Cementi più 2%, Ubibanca più 1,7. Chi perde? L'Automatica lo 0,91% e Ansaldo STS lo 0,6%. E allora cerchiamo di capire, visto che siamo qui nella prima giornata di lavori del workshop Ambrosetti, quali siano le previsioni e le attese dei più importanti manager, non chiaramente solo non solo di banche, perché Radio Call, l'agenzia di stampa del Sole 24 Ore, ha condotto un sondaggio come l'anno scorso con 320 intervistati, tra cui Alessandro Profumo, Paolo Scaroni, Corrado Passera, Fulvio Conti, Guido Rossi, Emma Marcegaglia, Marco Tronchetti Provera, Matteo Arpe, Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Benetton, chiedendo in sostanza ottimisti, pessimisti, quali saranno i problemi maggiori del futuro. Sentiamo che cosa è emerso da questa scheda. Il cielo non è totalmente sgombro dalle nubi, ma sui mercati azionari soffia un vento più carico di ottimismo. Infatti, sebbene oltre il 60% dei partecipanti al sondaggio sia convinto che i listini mondiali abbiano corso troppo negli ultimi mesi e attende una correzione più o meno profonda, è ampia la quota degli ottimisti. Quasi un quarto degli interpellati pensa, infatti, che le borse continueranno a salire senza interruzioni significative. Solo il 15% invece è pessimista, convinto che il peggio non sia ancora passato. Un pessimismo che per alcuni si poggia innanzitutto sulle anticipazioni dei dati trimestrali, che non si stanno rivelando particolarmente brillanti. Ma una certa cautela viene espressa anche da chi vede più positivo e pensa che la fase di crescita dei listini non sarà costante, ma caratterizzata da molta volatilità. Per altri ancora, a pesare è la grande quantità di risparmio ferma su strumenti poco remunerativi, come i bot, in attesa di essere spostata su altre posizioni. Ben chiari sembrano essere poi gli ostacoli alla ripresa economica. Rischio numero uno per la stragrande maggioranza del campione, oltre il 64%, è l'aumento della disoccupazione. Un problema che interesserà l'Europa almeno per i prossimi tre trimestri e che toccherà soprattutto i settori non protetti o con insufficienti ammortizzatori sociali. Secondo il 23% del campione, invece, il pericolo principale per la ripresa economica è da imputare alla stretta del credito, mentre poco più del 12% degli intervistati teme che a frenare lo slancio sia l'inflazione. Quindi migliorano, diciamo, aumenta chi si definisce cautamente ottimista. Arriveremo anche alle risposte alle domande che stanno arrivando al 349-238-6666, però vorrei una conferma, un commento sulla cosa che ha più sorpreso i colleghi di Radio Corda, questo sondaggio con Isabella Tasso, voce nota anche perché commenta le notizie di borsa ed è caporedattrice Radio Corda sulle 24 ore. Isabella, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora, la cosa che si è rivelata più una sorpresa di questo sondaggio rispetto anche alle attese? Sì, la cosa che ci ha maggiormente sorpreso è la percentuale molto bassa di chi dei veri pessimisti, cioè che chi prevede non tanto una correzione quanto il rischio di un nuovo crollo. Dicevamo, come avete detto, riassunto bene nella scheda, la percentuale si ferma ora al 15%, appunto una percentuale impensabile soltanto poche settimane fa. Il 60% prevede sì una correzione, ma di fatto non un'inversione del trend rialzista che è in corso sulle borse. La correzione viene prevista come sgonfiamento, diciamo, progressivo della bolla di liquidità che viene comunque intravista sul mercato. E quindi lo dico a chi scrive, per quello che vale, ma insomma sono 320 intervistati, la maggior parte, quasi il 60%, pur restando cautamente ottimista, si attende una correzione sui mercati, che vuol dire che si andrà a perdere qualcosa rispetto alla corsa fatta dalle borse dal 9 marzo in poi. Da inizio anno Milano è a un più 12% rispetto a gennaio, quindi non solo ha recuperato tutto quello perso fino a marzo, ma è andata anche oltre. Londra è un più 8%, il Nasdaq in America addirittura un più 25% rispetto a gennaio. Visto che il sondaggio, Isabella, lo avete fatto anche l'anno scorso, Ci puoi dire se le previsioni dell'anno scorso poi sono state imbroccate? Cioè... Ma guarda, l'anno scorso abbiamo fatto un sondaggio proprio sempre in occasione del workshop Ambrosetti di Cernobbio, non è completamente confrontabile con quello di quest'anno perché i temi sul campo erano diversi. Noi avevamo chiesto al nostro panel se ritenesse che le elezioni americane, quelle che poi hanno portato alla nomina di Obama, fossero un'occasione di ripresa per i mercati. In quell'occasione il 60% del panel si era detto abbastanza ottimista per quanto riguarda Wall Street, mentre per quanto riguarda Piazza Affari sempre circa il 60% era sostanzialmente neutrale. Non dimentichiamo però che sono previsioni che sono state formulate una decina di giorni prima da un fatto che era impensabile allora, cioè il fallimento di Lehman Brothers, che risale appunto alla metà di settembre, mentre il nostro sondaggio era stato condotto il 5 di settembre. Ecco, il fallimento di Lehman Brothers in quel caso ha veramente rimescolato le carte e ha provocato un tracollo delle quotazioni dei valori che era impensabile solo 10 giorni prima. Grazie Isabella Tasso, Radio Cori, Sole 24 Ore, e anche per commentare questi risultati. Vedo degli messaggi che dicono, ma insomma, sono tutti molto cauti, forse la crisi è finita, forse no, cautela. È innegabile, lo dico anche a chi scrive, che nessuno in questo momento abbia né la voglia né gli strumenti per fare delle grandi previsioni. La crisi è una crisi nuova, sbaglia chi dice che non c'è, sbaglia anche chi dice che ha le soluzioni a portata di mano. Quindi, dopodiché, della polemica con gli economisti parleremo tra un attimo. Vedo che alcuni di voi tornano sul tema, ma dicevo, per commentare questi risultati è qui con noi in studio il presidente del gruppo Atlantia, ex società Autostrade, ed economista Gian Maria Grospietro. Buonasera. Buonasera. Il suo ruolo in questo caso è da economista prima che presidente di un gruppo come Atlantia, ex, per chi non lo sapesse, Autostrade. Lei si ritrova nei dati diffusi da Radio Cora oggi, e soprattutto è il sentiment, per usare un termine un po' alto, che ha registrato nella prima mattinata di lavori qui a Cernobbio? 60% di ottimisti che pensano che però il mercato azionario correggerà a breve, 15% di pessimisti, 20%, 25% di solo ottimisti, con le preoccupazioni principali che si concentrano su disoccupazione, stretta del credito e inflazione. Presidente. Sì, mi ritrovo, credo che la cifra essenziale del sentiment che si riscontra qui a Cernobbio, anche tra gli stranieri, è primo un sollievo perché non è finita la fase della caduta libera della crisi, è finito il territorio incognito nel quale non si sa dove si va a finire per quanto si continua a cadere. È evidente a tutti che la caduta si è arrestata o sta per completare il suo arresto, e ci sono già qua e là dei sintomi di risalita. Quello che è stato messo bene in evidenza è che dopo che si è avuta una caduta di diversi punti percentuali, una piccola risalita di qualche decimo di punto percentuale in alcuni paesi è un ottimo segnale, ma non è sufficiente a recuperare il terreno che si è perso. E per dirla in modo più concreto da economista, oggi il sistema produttivo mondiale produce meno di quello che produceva un anno fa, il che significa che ci sono delle risorse, dei fattori produttivi che non trovano impiego, perché c'è meno da produrre e c'è meno domanda. Ecco, questo è il problema che abbiamo veramente di fronte: disoccupazione, e cioè fattori produttivi non impiegati, minore reddito prodotto, minore domanda, quindi, che può essere sviluppata dal sistema mondiale, e questa è la malattia che bisogna curare. Quindi non è più una malattia incognita, è una malattia che fortunatamente prevede anche delle terapie che sono note, a differenza invece della deflazione, come detto stamattina, che è una malattia che finora non ha trovato una terapia efficace, però è una malattia seria. E con una terapia, mi sembra di capire, usando il suo esempio, ancora lunga, cioè la degenza di questa malattia sarà lunga, cioè non ci aspettiamo un recupero nel 2010 così consistente. Sì, allora qui le terapie sono di breve termine e di lungo termine. La terapia di breve termine non può essere sostenuta a lungo, per definizione, ed è quella che hanno usato giustamente tutti i governi, cioè stimoli, immissione di liquidità, potere d'acquisto. Questo però devasta la finanza pubblica e quindi è una cura che non può essere sostenuta a lungo e che però è indispensabile, perché altrimenti la crisi continua ad avvitarsi. Ma allora qual è la cura a lungo termine? La cura a lungo termine è flessibilità dell'economia, in particolare per quanto riguarda l'Italia, crescita della produttività. Partiamo dalla prima: flessibilità dell'economia vuol dire che il sistema produttivo mondiale si rimetterà in condizioni di salute solo quando avrà un contenuto della produzione, non solo un volume della produzione, diverso da quello precedente, perché questa crisi è figlia di squilibri mondiali. Per dirla con molta semplicità, di Stati Uniti che consumavano di più di quel che producevano e di Asia che consumava di meno. Se vogliamo eliminare per esempio questo squilibrio, vuol dire che bisognerà produrre più cose che servono all'Asia e meno cose che servono agli Stati Uniti, il che vuol dire grandi investimenti da fare, ottima notizia per un paese che produce macchinari come l'Italia, ma bisogna che qualcuno questi investimenti li faccia, quindi bisogna far ripartire la macchina, ma una macchina che quindi non può essere uguale a quella precedente. E quindi qui un altro discorso sulle terapie: le terapie non possono solo consistere nel tenere in piedi le aziende che esistono anche se hanno delle difficoltà, perché l'economia sarà veramente risanata solo quando avrà cambiato contenuto delle produzioni e quindi qualche azienda dovrà cambiare produzione. Veniamo al gruppo che lei presiede, perché all'interno di questo voi non fate gli investimenti o solo gli investimenti, voi gestite anche la rete autostradale come concessionaria. Molte polemiche in questi mesi sul cosiddetto price cap, cioè tenere i prezzi anche per quello che riguarda i pedaggi sotto controllo, per evitare appunto un impoverimento del potere d'acquisto. E chiaramente chi gestisce poi la rete dice: attenzione, noi siamo anche una società e dobbiamo ragionare in base ai margini e agli utili. Qual è la situazione in questo momento e cosa chiedete? La situazione, io partirei dagli investimenti, sì, perché questa mi sembra che sia una notizia buona da dare. La nostra società prevede quest'anno di fare più investimenti dell'anno scorso e l'anno scorso abbiamo fatto più investimenti dell'anno precedente. Per fortuna ci sono attività come la nostra che non dipendono dalla congiuntura, che non sono fortemente cicliche, e queste aiutano a costruire quel ponte al di là del guado in cui ci troviamo. Naturalmente per poter finanziare questi investimenti noi ci dobbiamo rivolgere al mercato, perché un'altra cosa che dobbiamo dire è che in questi anni gli investimenti che stiamo facendo assorbono più liquidità di quella che la gestione è in grado di fornire, quindi noi abbiamo bisogno di finanziarci sul mercato. L'unica cosa che noi chiediamo, anche a nome dei mercati internazionali dei capitali, è una chiarezza, stabilità e visibilità del quadro regolatorio, perché i mercati dei capitali sono disposti a investire nelle opere infrastrutturali italiane purché le regole che sottostanno a questo investimento siano chiare e siano stabili. Che per un gruppo come Società Autostrade, io la chiamo ancora col vecchio nome, significa avere certezza su quelli che saranno gli adeguamenti tariffari previsti dal governo? Noi da questo punto di vista non chiediamo niente. Siamo soddisfatti della normativa che è stata raggiunta, dell'applicazione che è stata data, e quindi il mantenimento della situazione attuale assicura la possibilità di continuare gli investimenti e di continuare a far crescere questi investimenti rispetto agli anni passati. Un'ultima domanda su un tema che adesso tratteremo e che stiamo seguendo, così anche perché ci diverte molto: la polemica tra Tremonti, il ministro Tremonti e gli economisti, lanciata la settimana scorsa dal meeting di Rimini, Maggio Thelma, Mandrake, insomma, gli economisti che, adesso venendo al tema più serio, non riescono a fare autocritica, fanno grandi previsioni, poi non ne rispondono mai, e Tremonti ha chiesto polemicamente: state zitti per almeno un anno, due anni. Le risposte molto piccate di vari economisti sui giornali di ieri, nel suo ruolo di economista, lei ritiene da un lato che forse anche il mondo di chi ha fatto previsioni dovrebbe fare un po' di autocritica, ma dall'altro non ritiene che un certo ruolo così di pungolo, di stimolo, di consulenza, di aiuto, di confronto possa arrivare dal mondo dell'economia, al ministro stesso? Ma io credo di sì, che tutti hanno interesse a partecipare a un dibattito per migliorare, affinare le proprie idee, anche gli economisti. Io credo che il mondo degli economisti, in particolare degli economisti accademici, non solo debba fare autocritica, come a tutti capita di doverla fare ogni tanto, ma debba profondamente ripensare il modo con il quale la scienza economica è stata sviluppata negli ultimi 10-15 anni. Perché non è un caso che, non dico che sono state sbagliate le previsioni, perché questo è logico, è normale che le previsioni possano essere sbagliate. Il fatto è che la scienza economica e anche le parti più celebrate della scienza economica, voglio dire i premi Nobel di molti degli ultimi anni, sono andate in una direzione dell'analisi economica che ha profondamente sottovalutato i rischi di un determinato sviluppo, i rischi sistemici, e mi lasci dire che, a mio personale giudizio, questo non è stato casuale. Cioè l'indirizzo che ha preso la scelta economica, che è stato quello di una modellizzazione spinta. Modelli matematici, algoritmi. Modelli matematici e gli algoritmi hanno in sé una forza che ha permesso degli enormi progressi. Purtroppo i modelli matematici non riescono a ingabbiare, a rappresentare tutta la realtà. Allora, l'autocritica che io credo debba fare la scienza economica sta in questo, che nell'ansia di migliorare i modelli e di renderli sempre più perfetti, si è teso a trascurare l'esistenza di fattori che nei modelli non riuscivano a entrare. E purtroppo sono proprio questi fattori che hanno determinato la crisi. Per esempio l'alta propensione al rischio o ad assumersi rischi in periodi come questi che non entravano nei modelli, o l'incapacità dell'individuo di calcolare esattamente i rischi che si stava assumendo e la propria posizione finanziaria. Ecco, allora io citerei due fattori, naturalmente è difficile in parole e in poco tempo spiegare tutto, ma citiamo due fattori. Uno, il modello riesce a calcolare abbastanza bene che cosa succede se gli operatori si muovono secondo determinate regole. Il modello non è ancora sufficientemente potente per riuscire a considerare gli effetti sistemici, e cioè il fatto che ciascun operatore muovendosi provoca poi delle conseguenze a livello di sistema che il modello non riesce compiutamente a considerare. Questo è uno dei difetti. L'altro difetto è che l'operatore può, usando la sua intelligenza e la sua astuzia, violare le regole. Allora, questi due elementi non sono stati sufficientemente dominati dalla teoria economica. Beh, potremmo dire, per concludere, Presidente Grosspietro, meno algoritmi, un po' più di granus salis. Sì. E anche così di senso di ragione comune. Grazie al Presidente del Gruppo Atlantia, Gianmaria Grosspietro. Grazie a lei, buonasera. Quando è che rinvitate l'astrologa? Capisco il tono serio da Cernobbio, ma anche l'astrologa avrebbe una sua dignità. Non vi preoccupate, la nostra astrologa tornerà, visto che poi è periodo di maghi e astrologi, la settimana prossima, era giustamente in vacanza. Nella parte seria invece della risposta, alcuni di voi dicono, usando l'esempio che ha appena fatto il Presidente Grosspietro, sì, vabbè, però il malato l'abbiamo prima fatto morire, ora tutti quanti si discettano e discettano, sull'autopsia. No, non è proprio così, l'economia sta lentamente uscendo, lo abbiamo detto più volte. Altra cosa è capire in che modo se ne uscirà. Attenzione, ed è l'ultima risposta che do agli sms, ai paralleli col 29, cioè si dice 29 perché dal 29 non si conosceva una crisi di queste dimensioni, numeri e cali. da lì a dire che poi, siccome nel 29, dopo nel 30 la borsa è calata di nuovo, potrebbe accadere lo stesso, io andrei piano con i parallelismi automatici. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dal workshop Ambrosetti di Cernobbio. Un po' incattiviti alcuni ascoltatori oggi al 349-238-6666. Sì, degli errori degli economisti abbiamo parlato moltissime volte, non c'è nessun problema, abbiamo anche chiesto a molti di loro in questi giorni di fare autocritica, però piano, nessuno ha la verità rivelata e mi sembra che nessuno possa permettersi di tirarsi fuori. Comunque, continuiamo su questo, la borsa ha chiuso in maniera positiva, fra poco ci arriviamo, vi do anche i titoli migliori in questo momento a borsa chiusa, che sono, per quello che riguarda Milano, Popolare di Milano più 5%, Stima Microelectronics più 4,3%, Banco Popolare più 3,6%, Intesa più 2,80% e Fiat più 2,5%. Restiamo sul tema anche dell'incapacità di prevedere, di fare previsioni, dell'autocritica necessaria. Grazie a Jean-Paul Fitoussi, che ci ha raggiunto qui nei nostri studi, docente di economia presso l'Istituto di Studi Politici di Parigi e la LUIS di Roma. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, restiamo su questo tema, visto che molti ascoltatori ce lo richiedono. Facciamo risentire per l'ultima volta questa settimana però il famoso passaggio del ministro Tremonti al meeting di Rimini, quando ha tacciato gli economisti di fare previsioni tra il mago Telma e Mandrake, e soprattutto seriamente ha detto non c'è mai autocritica, grandi previsioni, poi grande autoassoluzione. Sentiamo. Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. Tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausta stesso, pure molto rispettabile, Prospero, il mago di Oz, Harry Potter, naturalmente c'è anche Mandrake, il mago Witz, Satanic, devo dire anche il mago Telma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Nessuno di questi ha mai detto ho sbagliato. Hanno sempre sbagliato gli altri. Allora, professor Fitoussi, dov'era nascosta la bacchetta magica? No, sicuramente è una baghetta magica, ma io interpreto in un modo diverso quello che ha detto, quello che ho sentito che ha detto Tremonti. Io lo interpreto sul modo seguente. Ci sono due categorie di economisti, una che è diventata fortemente maggioritaria dall'inizio degli anni Ottanta, e che basicamente dice che tutto è per il meglio nel migliore dei mondi possibili, e che quando si vede qualche cosa che non va è la colpa dello Stato. E questi economisti dicevano, quando facevano delle previsioni, che se c'è qualche cosa che non va è perché i mercati non sono abbastanza liberi, perché non c'è abbastanza flessibilità, eccetera, eccetera. E c'è l'altra scuola, di cui faccio parte, che diceva no, non è proprio così, perché abbiamo imparato che ci sono disfunzionamenti di mercati grossi e che andiamo a vedere nuovi disfunzionamenti di mercati, perché è la ragione dell'intervento dello Stato. E questi economisti facevano anche delle previsioni, che non erano sbagliate. Gli economisti che si sono sbagliati, lo sappiamo, sono gli economisti che hanno un una coerenza dottrinale troppo forte. Quelli del che sono quelli che fanno parte della secta del mercato. Sì, è chiaro, insomma, che lei dice, attenzione, che tu appartenga alla scuola più liberista, quella che, in cui il mercato si autoregola. Quelli si sono sbagliati. Quelli si sono palesemente sbagliati. Ma, no, bisogna dirglielo. Non è solamente che si sono sbagliati. Hanno voluto sbagliare. Ma che si sono totalmente sbagliati. E che la realtà ha portato, per una volta, una prova del loro sbaglio. Perché questi dicevano che i mercati finanziari erano il luogo della razionalità. E abbiamo visto che invece è più il luogo dell'avidità. Non mi chiedete di nuovo Gordon Gekko di Wall Street, perché tutta la settimana che lo mandiamo in onda, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, il passaggio mitico in cui Michael Douglas ricorda che è l'avidità il motore di tutto. Insomma, questa avidità non era calcolata, mettiamola così, negli algoritmi. Ma il problema non è che era avidità, il problema è che era irrazionalità, era impossibilità aritmetica. I mercati dicevano, le banche dicevano a tutti, la gente, che era possibile di darlo un rendimento superiore al rendimento medio, che è un'impossibilità totale. Certo. E dunque questo era la pura irrazionalità. Una volta un sindacalista ha detto: io propongo che tutti i salariati guadagnano più del salario medio, e tutti hanno riso, no? Certo, se è medio, qualcuno dovrà guadagnare in meno. Ma quando il settore finanziario l'ha detto, nessuno ha riso. Tutti credevano che essere sopra la media. E dunque questa irrazionalità non si può rappresentare con un modello totalmente razionale. C'è un altro aspetto di questa polemica, per cui è chiaro che certi approcci sono risultati fallimentari, quantomeno per miopia, che, come lei ricordava, si naviga a vista anche nelle due scuole, perché la situazione è nuova, è completamente nuova. C'è però chi fa notare che anche il governo italiano, anche il ministro Monti, potrebbe aver bisogno di un consiglio, di un confronto con opinioni economiche. In Francia su questo abbiamo visto una posizione del premier Sarkozy, in cui, però ce lo confermi lei, in realtà sente i consigli di alcuni economisti e sulla base di questo si muove. Ma io direi che Sarkozy mi sente, ma che Tremonti anche mi ascolta. Oh, quindi lei è bipartisan tra Sarkozy e Tremonti, questo ci fa molto piacere. No, bipartisan non dirò. Io sono un economista indipendente, io dico quello che penso. E quando un uomo politico mi fa l'onore di sentirmi, io gli dico la stessa cosa che dico agli altri, non faccio un discorso particolare. E allora ci dica cosa raccomanda, cosa consiglia a il ministro Monti e a Nicolas Sarkozy. Il problema è che è molto difficile di dare dei consigli ai paesi nazionali in Europa. Perché? Perché c'è un problema strutturale della decisione in Europa. Insomma, siamo in trappola di un gioco non cooperativo che fa, il mio consiglio è di andare avanti, di avere un vero piano orientato verso il futuro, e che anche se rialza il debito pubblico non è problema se crea degli asset che valgono di più della spesa. E a questo momento è molto facile di farlo, perché abbiamo delle occasioni di investimenti pubblici che sappiamo che hanno un alto rendimento. Dunque si può, è questo che bisogna fare. Ma il problema in Europa è il seguente: se un paese lo fa solo, paga il costo ma non ha i benefici, e gli altri paesi vanno a avere i benefici. Allora che fare? Io dico, Sarkozy bisogna fare questo, a Tremonti bisogna fare questo, e loro mi dicono, ma allora che facciamo se la Germania non fa nulla? Che facciamo se la Spagna non fa nulla? Che facciamo se il resto dell'Europa non fa nulla? E a questo punto io dico, allora bisogna avanzare su due direzioni, quella della natura del piano che abbiamo bisogno e la seconda della natura delle istituzioni europee di cui abbiamo bisogno. Di nuovo in diretta con Focus Economia. Adesso arriviamo anche alla borsa. I rialzi ve li ho già dati. Molti di voi anche criticano con gli sms Tremonti, ministro Tremonti, per le previsioni sbagliate. Chiudiamo l'intervista invece con Jean-Paul Fitoussi, che è il nostro ospite. Allora, sul tema delle regole, regolamenti per i bonus e per i premi, diciamo, da dare ai manager delle grandi banche d'affari, delle istituzioni finanziarie, sembra esserci una intesa a livello europeo. Lei è d'accordo? Insomma, questi bonus, questi premi vanno regolati, regolamentati, messi anche con un tetto? Non credo. Io credo che, per dire la verità, che facciamo un movimento un po' ipocrito. Il problema dei bonus, il vero problema, è il problema dei profitti delle banche, non del bonus. Certo. È normale che se le banche sanno che dando dei bonus fanno più di profitti, allora vanno a dare dei bonus. Dunque, il problema oggi è quello di chiedere come si può accettare che queste banche, che sopravvivono grazie al taxpayers, cioè che sopravvivono grazie ai soldi dei contribuenti, grazie ai soldi, agli aiuti che gli stati hanno messo a disposizione, fanno dei profitti così alti che hanno costato un sacco di soldi alla gente, che sono responsabili di una maggior parte dell'aumento del debito pubblico. Come è possibile che fanno dei profitti e che questi profitti vanno nelle loro tasche? È un problema. E il problema è venuto fuori perché quando i governi hanno aiutato le banche non hanno preso abbastanza di garanzie. Si può capire perché la situazione era molto grave e bisognava andare a una decisione molto velocemente, ma da questo momento almeno i governi avrebbero dovuto pensare un po' di come prendere queste garanzie, perché se le banche sopravvivono oggi è grazie ai contribuenti del mondo intero. Per esempio, se il contribuente americano non aveva pagato per salvare le banche americane, le banche europee saltavano. Dunque si sa bene questo, dunque c'è un problema di gestione dei profitti del settore bancario, del settore finanziario in periodo di tensione, in periodo di transizione verso un nuovo sistema finanziario. Ecco, tra l'altro proprio da questo punto di vista noi sappiamo che la stima di quanto è costata la crisi economica è una stima di 10.000 miliardi, Commerzbank l'ultimo dato, di cui 4.700 miliardi per salvare le banche, gli asset e svoltati. Un'ultima domanda rapidissima, mi riferisco ai dati economici usciti oggi, questa disoccupazione americana che schizza al 9,7% ad agosto, il dato peggiore dal 1983, era attesa oppure è un segnale che l'uscita sarà più lenta del previsto? No, era atteso. Sappiamo che dappertutto il mondo la disoccupazione continuerà a aumentare. Purtroppo è la ragione perché siamo in crisi. Se la disoccupazione non aumentava, non parleremmo nemmeno di una crisi. E il problema è che sappiamo che nei mesi e anche negli anni a venire la disoccupazione continuerà a crescere. E dunque il problema, il fatto che oggi abbiamo fatto quasi 40 milioni di disoccupati in più nel mondo, è il segnale della crisi, che in un anno saranno 60 milioni di più. è un segno della crisi, che il fatto che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è raddoppiato dall'inizio della crisi è il segnale dell'esistenza della crisi. La crisi non è finanziaria, la crisi è reale. Adesso è reale? No, era reale prima. Era reale anche prima, cioè è nata per motivi finanziari, ma era... Vedo molti commenti a favore di quanto le dicevo sulle banche, un tema che noi stiamo toccando, nessuno vuole criminalizzare, lo dico anche a chi scrive il mondo bancario, però è chiaro che soprattutto alla luce dei dati, degli utili diffusi delle banche americane, ma non solo, anche qualche banca europea, nel secondo trimestre dell'anno, beh, insomma, vedere che gruppi salvati con decine di miliardi di dollari dai contribuenti americani hanno poi già, diciamo, da marzo in poi ripreso a fare utili, a fare investimenti speculativi, a accantonare milioni e milioni di dollari per i bonus ai manager, beh, non è il massimo della vita, visto quello che è questa crisi generata da un eccesso di speculazione, di rischio finanziario, beh, non è il massimo, visto che questa crisi poi le banche l'hanno superata grazie ai soldi dei contribuenti. Grazie comunque, buon lavoro e buon proseguimento a Jean-Paul Fitoussi. Grazie. E noi continuiamo, la borsa, volete la borsa? La borsa adesso arriva, avremo un'ampia pagina di borsa, però vedo che molti dicono in sostanza, se riassumo, state difendendo il ministro Tremonti, non vi ricordate delle finanziarie che ha fatto nel 2002, nel 2003, nel 2004. Allora, intanto nel 2002, 2003, 2004 eravamo in onda e con fior fior di ospiti ricordavamo come molte previsioni di allora fossero peccassero di un eccesso di ottimismo. Due, nessuno sta, diciamo, tirando la volata al ministro Tremonti, che non ne ha nessun bisogno, si sta solo ragionando se all'interno della sua frase, del suo commento, non ci fosse qualcosa di vero, cioè un po' di bisogno di autocritica anche da parte degli economisti. Un economista che le previsioni le ha sicuramente azzeccate, infatti viene considerato il guru in questo momento assieme a Stiglitz e a Krugman, è Nouriel Roubini, che tra l'altro proprio nel forum di Davos del 2006, se non vado errato, ebbe uno scontro epocale con il ministro Tremonti, forse era il 2000, non era il ministro Tremonti a quel tempo, ma uno scontro epocale in cui si arrivò a un battibecco. Nouriel Roubini ha avuto ragione su questo, lo dico così placchiamo anche gli animi degli ascoltatori. Sentiamolo, perché oggi qui a Cernobbio lo ha raggiunto il nostro Stefano Totoro, gli ha chiesto in primo luogo che cosa ne pensasse di questa polemica che si è aperta tra il ministro e il mondo, diciamo, chi deve fare previsioni economiche. A mio avviso non sono stati solo gli economisti a fallire nel non prevedere la crisi. Lo stesso hanno fatto i politici, le istituzioni, i mercati finanziari, Wall Street. Tutti hanno sbagliato a fare previsioni. È stato un errore collettivo. Eravamo nel pieno di una bolla. Non credo si possano accusare soltanto gli economisti. Ripeto, è stato uno sbaglio collettivo. Quando si è in fase di bolla finanziaria, regna una sorta di esuberanza irrazionale negli economisti, nel mondo politico, nel mondo finanziario, nelle agenzie di rating, in tutti. Insomma, è stato un caso di scarsa saggezza collettiva, di errore nel comprendere i problemi che c'erano. Sono un po' preoccupato per la situazione italiana, soprattutto nel breve termine, perché anche se la ripresa globale potrà aiutare il paese, i problemi che l'Italia deve affrontare sono più a medio che breve termine. Non c'è abbastanza crescita produttiva e se non c'è quest'ultima, la ripresa economica sarà debole. E finché non saranno varate riforme economiche più strutturali, non ci sarà una rapida ripresa dell'economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa ultima puntata della settimana di Focus Economia, che va, lo ripeto, in diretta da Villa d'Este, dove si è aperto oggi, si sono aperti i lavori della prima giornata del workshop Ambrosetti. Non possiamo continuare sulle previsioni, sulle polemiche, mi riferisco alle previsioni degli economisti, alle accuse che gli ha mosso il ministro Tremonti. Avete sentito diversi punti di vista, alcuni di voi ci tengono che noi si ricordi che per Nouriel Roubini la ripresa sarà W, quindi ci sarà di nuovo una correzione. Devo dire che quello che emerge anche dal sondaggio di Radio Core compiuto con 320 top manager e che vi abbiamo fatto ascoltare all'inizio. Cioè, i mercati dovrebbero correggere questo, si attendono la maggior parte degli intervistati. Per ora, o almeno oggi, non l'hanno fatto, nel senso che il Milano ha chiuso con 1,3% di rialzo sul FTSE MIB, Parigi più 1,3%, Francoforte più 1,6% nel finale. E tra l'altro tutte le borse sono migliorate nel finale, perché adesso l'America ha preso in maniera più decisa la strada del rialzo, più 0,90%, Londra più 1,1%, dicevamo. Questa mattina invece debole la chiusura di Tokyo. Euro a quota 1,43, bene la Banca Popolare di Milano più 5%, ST Microelectronics più 4,3%, Banco Popolare più 3,6%, Intesa più 2,80%, Fiat più 2,5%, Pirelli più 2%, UbiBanca più 1,80% come Tenaris, e Mediolanum l'1,7% lo guadagna Italcementi, 1,5% il rialzo di Mondadori, Mediobanca, Atlantia, Prismian e Telecom Italia. Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Mi sembra che oggi a trainare questa chiusura dopo una settimana decisamente insomma debole siano stati tutti bancari, nel caso specifico come ricordavamo Popolare di Milano più 5, Banco Popolare più 3,6 e anche Intesa. Sì, per quanto riguarda Milano certamente i bancari hanno avuto un ruolo da protagonista, allargando lo sguardo invece all'Europa direi che assoluto protagonista è stato il settore auto, che ha guadagnato nell'indice di riferimento il DJ Stock 600 3,5 punti percentuali. È stato ottimo anche il settore delle materie prime e dell'energia, settore auto effervescente dopo l'accordo tra Mitsubishi e Peugeot per la produzione e la commercializzazione in Europa di auto elettriche. Tra l'altro su Intesa San Paolo è intervenuto oggi anche il numero uno, Corrado Passera, che proprio qui a margine del workshop Ambrosetti ha detto che il gruppo Intesa potrebbe addirittura rinunciare ai Tremonti Bond, cioè quel prestito concesso dai governi, dal governo italiano in questo caso, e l'eventuale rinuncia starebbe a dire, da come abbiamo capito, che i conti del gruppo sono messi meglio del previsto. Comunque sentiamo Corrado Passera al microfono al nostro Stefano Totoro questa mattina qui a Cernobbio. La decisione dovrà tener conto di tante cose, dell'ambiente nel quale siamo, del cambiamento in positivo che hanno avuto i mercati, certamente dei risultati buoni che la banca ha accumulato in questi mesi e quindi del rafforzamento patrimoniale che comunque è avvenuto per vie normali. Certamente bisognerà tener conto di quanto le dismissioni previste dal nostro piano saranno a quel punto vicine, perché come sapete i Tremonti Bonds erano intesi come una specie di ponte in attesa delle dismissioni, perché la banca comunque raggiungerà i livelli di patrimonializzazione previsti attraverso la gestione, i suoi risultati e le dismissioni. L'importante è che ci siano in aziende le risorse nel breve del medio periodo per assicurare la crescita del credito. Quindi sulla base di tutte queste decisioni, in occasione del prossimo Consiglio, prenderemo la decisione definitiva. E appunto avete sentito molto bene, Corrado Passera ha detto ancora non sappiamo se utilizzeremo diciamo, la possibilità che ci ha offerto il governo. Andrea Fontana, al di là dei titoli bancari, oggi in evidenza ST Microelectronics e devo dire tutto il settore dei chips, microchips a livello europeo, ST più 4,3%. Sì, ST è oggetto di ricopertura da qualche seduta, oggi è tornata sopra la soglia dei 6 euro, un andamento che è partito con i conti semestrali nella seconda parte di agosto e che ha beneficiato di alcune indicazioni positive arrivate nel frattempo da Nokia e da altri operatori del settore tecnologico e telefonico. Oggi sono arrivate le indicazioni da parte di un altro produttore chips statunitense, Novellus Systems, che certamente non ha le dimensioni di ST Microelectronics, ma che ha rivisto a rialzo le indicazioni della seconda parte dell'anno, e questo ha fatto bene anche ad ST, che appunto ha guadagnato il 4,4%. E questo spiega appunto anche l'andamento. Comparto auto, dopo una difficoltà, nonostante i dati sulle matricolazioni in Europa e anche in Italia, oggi abbiamo visto crescere la Fiat più 2,5%. Se uniamo al commento anche Pirelli, che ha guadagnato l'1,90%. Certo, un settore auto effervescente, come dicevo inizialmente, in tutta Europa. L'attesa prima dell'accordo tra Mitsubishi e Peugeot e poi l'ufficializzazione dello stesso, le due case, quella giapponese e quella francese, produrranno insieme, commercializzeranno in Europa un'auto elettrica a marchio Peugeot Citroën, ma basata su un modello di Mitsubishi Motors. Questo annuncio ha dato il via alle vendite su tutto il settore. In Europa in particolare Peugeot ha guadagnato il 7%, ma si sono messe bene in luce Renault, Michelin e anche i titoli tedeschi, con l'eccezione di Volkswagen. In Italia molto bene Fiat, più 2,5%, ha sfiorato sul finale gli 8 euro, fermandosi a 7,99. Bene anche Pirelli, che aveva subito una correzione un po' nelle ultime sedute, invece ha recuperato decisamente. Di nuovo in diretta, allora Andrea Fontana, anche su Telecom Italia sono continuati gli acquisti oggi, più 1,4%, e dichiarazioni sono arrivate proprio da Cernobbio. Perché Franco Bernabè ha dichiarato in sostanza che il debito è sistemato e ora il gruppo è pronto a correre. Sentiamolo sempre al microfono del nostro Stefano Totoro. Quello che noi abbiamo fatto in termini di razionalizzazione del portafoglio, contenimento dei costi e soprattutto sana e prudente gestione è stato premiato dal mercato, sia dal mercato del debito, che ci ha premiato ampiamente in termini di performance dei nostri crediti swap, sia dal mercato azionario, che onestamente negli ultimi 12 mesi vede l'indice di Telecom Italia sovraperformare, con dei multipli di Telecom Italia che sono allineati esattamente ai multipli di settore. Quindi, diciamo, nella nostra strategia la priorità era quella di tranquillizzare il mercato, mettere a posto il debito, ritornare ad una sana, diciamo, a una gestione che desse il senso di una continuità, di una stabilità, di un rigore nel lungo periodo, che tranquillizzasse i mercati. Questo risultato l'abbiamo ottenuto. Oggi Telecom Italia è molto tranquilla e ben recepita dal mercato. Ora probabilmente si presenta una nuova fase. Io sono molto ottimista. Se questa ripresa sul piano dell'economia reale si consolida, noi siamo pronti a coglierla. Anzi, siamo molto desiderosi di cogliere questa ripresa, perché abbiamo la macchina a posto, abbiamo tutti quanti che hanno voglia di riprendere a correre, di riprendere a vincere, di riprendere ad essere i leader come Telecom Italia è stata nel corso della sua storia. Queste quindi le dichiarazioni di Franco Bernabè. E allora, Andrea Fontana, il titolo ne ha risentito positivamente? Beh, cioè, sicuramente ha subito un'accelerazione nella seconda parte della seduta, insomma, questo ottimismo di Bernabé, unito anche alle indicazioni che sono emerse sui giornali negli ultimi giorni, cioè le trattative ormai avanzate con Telefonica per la cessione della controllata tedesca a Hansanet, le possibili trattative con la stessa Telefonica per la vendita della quota nella partecipata cubana Texa, così come la gara su Sparkle, quindi un'altra dismissione di un asset che potrebbe portare cassa a Telecom Italia. Unite a queste parole Bernabé, hanno spinto il titolo in guadagno dell'1,4%, quindi meglio del mercato. Resta la questione argentina sul piatto, però il mercato sembra ottimista. Bene anche alcuni titoli oggi in borsa legati al settore energia. Nel caso specifico abbiamo visto crescere tutto il comparto, Eni più 0,80%, Terna più 0,7%, bene anche, che non c'entra nulla con energia, Italcementi più 1,7%, l'avevo dimenticato prima. Il titolo Edison, tra l'altro, ha beneficiato di un insieme di dichiarazioni arrivate anche qui da Chernobyl. Quindi, nel ringraziare Andrea Fontana, tratterei l'ultimo tema tra quelli emersi qui, al di là delle previsioni economiche, gli scenari, il ruolo delle banche, gli utili bancari, i profitti dei manager. Si è parlato anche molto, per quello che riguarda l'Italia, di energia. Sì, si è parlato soprattutto del progetto, del programma nucleare e di un'eventuale concorrenza o così competizione tra Enel da un lato e Edison dall'altro. Sappiamo infatti che Enel ha scelto come partner tecnologico per dargli know-how EDF, che è l'Enel francese, solo che EDF è anche il primo azionista di Edison, che sarebbe concorrente di Enel in Italia nel progetto nucleare. Allora, in primo luogo vi facciamo ascoltare l'intervista con Fulvio Conti, che è amministratore delegato di Enel, e poi ne parleremo, la commenteremo, se così possiamo dire, con l'amministratore delegato di Edison. Credo che giustamente il governo italiano sulla questione nucleare, essendo chiaramente una tecnologia relativamente nuova per l'Italia, visto che per 20 anni l'abbiamo abbandonata, sta cercando di trovare forme di collaborazione con tutti quei paesi che hanno mantenuto e sviluppato tecnologia nucleare. Anche la stessa collaborazione che noi abbiamo con i francesi è il frutto del risultato di un accordo intergovernativo che ha messo le basi perché poi gli operatori possano parlare. Quindi cercherei di sfumare un po' questa guerra tra Guelfi e Ghibellini, che non esiste. Insomma, noi abbiamo scelto inizialmente la parte tecnologica francese perché la stiamo sperimentando con successo in Francia, ci sembra che sia la più adeguata alle esigenze di questo paese. Se leggiamo gli accordi che noi abbiamo, non è un accordo esclusivo, c'è la possibilità di utilizzarne anche altri, non pretendiamo di fare tutto il nucleare italiano, c'è spazio anche per altri, e comunque quello che facciamo noi, lo diciamo da sempre, è aperto al contributo di altri, che siano operatori o che siano evidentemente investitori. Così appunto Fulvio Conti, numero uno dell'Enel. Il riferimento, come dicevamo, riguarda anche la scelta di Enel di utilizzare EDF come partner, diciamo, sul know-how, sulle conoscenze per sviluppare nucleare in Italia, e l'accenno a Guelfi e Ghibellini, così facciamo capire tutto, è riferito al fatto che allo stesso tempo EDF, che sarebbe, diciamo, l'Enel francese, è socio di maggioranza relativa nel gruppo Edison. È qui con noi l'ingegnere Umberto Quadrino, che di Edison è l'amministratore delegato. Buonasera, ingegnere. Buonasera a voi. Allora, dice Fulvio Conti, nessuna guerra tra Guelfi e Ghibellini, alla luce anche di alcune indiscrezioni di stampa delle ultime settimane in cui emergeva un certo perplessità da parte vostra: ma come, noi abbiamo EDF nel capitale, vogliamo anche noi sviluppare il nucleare, poi l'Enel fa l'accordo con EDF, c'è spazio per tutti? Ci mancherebbe altro, lo spazio ci sarà sicuramente, anzi Penso che, visto l'impegno finanziario per un programma nucleare, il problema sarà piuttosto quello di trovare le risorse finanziarie per finanziare tutti gli investimenti che ci saranno da fare. Noi sicuramente siamo interessati a partecipare a questo programma. Ma lei come se lo immagina questa sfida? Cioè, in questo momento l'ENI è leggermente più defilata, i due soggetti che hanno chiesto di operare in maniera forte sul nucleare siete voi ed Enel, usando alla fin fine lo stesso partner, cioè per voi è l'azionista, è il socio di maggioranza, per Enel sarà il fornitore di tecnologia, che insomma, una spartizione senza troppi conflitti oppure una concorrenza vera al miglior offerente? Diciamo che se vogliamo raggiungere l'obiettivo che il governo italiano ha indicato per il medio termine, cioè produrre il 25% di tutta l'energia elettrica italiana attraverso fonte nucleare, c'è tantissima strada da fare. Le prime quattro centrali saranno queste centrali EPR, tecnologia francese, fatte in società tra l'Enel e l'EDF, aperte appunto al contributo di altri operatori nazionali. Sono benvenute poi altre centrali, sia di tecnologia EPR, sia eventualmente di altre tecnologie. Bisogna vedere se il Paese si può permettere lo sviluppo di due filiere tecnologiche con tutto quello che comporta. Penso che tutti gli operatori elettrici di grossa taglia vorranno partecipare al programma nucleare, noi sicuramente saremo della partita. Ci sarà probabilmente una partecipazione anche dei grandi consumatori che attraverso il nucleare vogliono ottenere poi una fornitura di energia a costi più bassi. Sicuramente sarà così, ci sono degli investimenti da fare. Quindi nessuna guerra Edison Enel? Sicuramente no. Sai che noi sulle guerre invece ci citiamo. un'ultima domanda, come sta andando con il rigassificatore? Il rigassificatore ha ricevuto la prima nave dal Qatar il 3 agosto. Era una nave che serviva per raffreddare il sistema, come sapete arriva il gas a meno 170 gradi, quindi tutto il sistema deve essere raffreddato, poi il gas viene portato a temperatura ambiente e si trasforma da liquido in gas appunto. In queste ore sta circolando il primo gas nella rete italiana e quindi l'inaugurazione ufficiale del rigassificatore di Rovigo avverrà a metà ottobre, parteciperà l'emiro del Qatar e più alte autorità italiane e finalmente avremo una nuova fonte di rifornimento per il nostro paese. Bene, allora a metà ottobre, grazie all'amministratore delegato del gruppo Edison, Umberto Quadrino. Grazie a voi. Insomma, Grosspietro, Fitoussi, Rubini, Passera, Bernabè, Quadrino, Fulvio Conti, spero che grazie anche all'aiuto di Filippo Aureggi in regia, Davide Ciocci in assistenza tecnica, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, anche oggi Focus Economia sia servita, per quanto è possibile, per quanto riusciamo a fare, a dare un'idea dei temi che si stanno dibattendo tra chi l'economia o la studia o la gestisce. Noi questo riusciamo a fare, scusateci se non è abbastanza. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi in ascolto di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo come sempre lunedì dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia.